no, beh, a parte la mia compagnia, il posto dove siamo stati si chiamava Peniche, però... Peniche? Sì, però non è tanto nome. Cioè già pensavi che c'era un'area che poteva esserci qualcosa di concreto? No, era come stava per penuria di materia prima. Cioè i pochi che ce l'avevano non lo davano a nessuno. Era solo della moglie, della fidanzata, oppure preferivano darlo in pasto all'oceano. Dal momento che, insomma, tra le onde giganti e il sovraffollamento in mare, ogni giorno contavamo i caduti e i feriti. Facevamo la spola col pronto soccorso. Quindi... Perché ci si fa male andando facendo surf, sì. Eh sì, si era anche in tanti, le onde erano grandi, quindi c'erano punti in testa, dita rotte, sì, tutti i giorni così. Quindi diciamo, com'era stato... diciamo, l'accoppiamento, cioè quanti uomini e quante donne, per capire, la percentuale? Ma c'erano due coppiette storiche e poi insomma eravamo, forse c'erano due o tre uomini in più, comunque eravamo 20 persone, cioè eravamo 8-9 donne, quindi comunque ce n'erano, erano tutte ragazze anche molto giovani, più giovani di me. E i ragazzi? I ragazzi erano dai 20 ai 30, poi ce n'erano due che insomma 30-40 anni. Ma insomma, diciamo, una buona fauna, c'era un bel terreno di coltura, no? Sì, però c'era questa astinenza forzata dei single del gruppo. Maritati e fidanzati invece vivevano in questa modalità cintura di castità che si erano autoimposti. Avevano lasciato a casa queste specie di orchestre gelosissime delle mogli e delle fidanzate, al punto che a un certo punto non riuscivano nemmeno a pensare di fare una foto tutti assieme. La paura che quelle li vedessero. E certo, avevano paura di ritorsioni. Vabbè, uomini schiavi completamente. Sì, assolutamente schiavi. Io quando ho visto delle scene a un certo punto ho capito che noi siamo prossimi all'estinzione. E quindi fammi un esempio, no, voglio capire. Mi conforta questo e mi rassicura sul nostro futuro di sessantenni, però dimmi tutto. Sì, forse è meglio, sessantenne non avrebbe lasciato... Beh, oddio, certo, almeno, sì. Diciamo, ci avrebbe provato, ecco. Infatti poi abbiamo incontrato un oste della Malora di 60 anni che in effetti ci ha provato con tutte quante noi. L'ha ripassato tutto? Nello stesso momento. No, ci ha provato con tutte quante noi. Vabbè, tutte assieme, grazie, ma c'è una cosa di gruppo, sennò che sai sì, che no. Sì, ma comunque ai ragazzini che erano con noi non sarebbe mai venuta in mente una cosa del ma genere. Ma figurati, quelli ancora. Sono al massaggio mai. Romantico, però fatto da soli. E quindi al minimo accenno di possibile attività sessuale nell'aria, anche se questi ragazzini bevevano tantissimo, fumavano, insomma, comunque in questi momenti sì, ognuno alzava le antenne, tutti, perché comunque in queste serate alcoliche, perché poi lo scopo della vacanza qual era? In realtà per loro era di bere, di fumare, di non ricordare più niente il giorno dopo, però qualcosa ricordavano. A causa di questa astinenza forzata eravamo tutti molto attenti a cosa faceva l'altro, a chi si accoppiava con chi eventualmente. E quanti sono accoppiati in media, in percentuale? Forse immagino quelli che condividevano la stanza, maschio o femmina, che erano già fidanzati. Beh, quello che discorsi, come è normale. Che... No, gli altri pur nello sballo di bere, di uscire tutte le sere, di far rotolare queste birre in casa, perché eravamo tutti nella stessa casa. Però non hanno combinato niente, cioè ci tenevamo d'occhio tutti, quindi se succedeva al minimo accenno di qualcosa, il giorno dopo sapevamo di che cosa avremmo parlato. C'erano queste leggende degli accenni erotici, ecco, questo, cioè accenni sì, ma erotici della sì, ma sera prima. Io queste cose mi ricordo alle scuole medie, accadevano alla gita scolastica, non lo so. E infatti era come una gita scolastica, però spostata un po' più avanti nel tempo. È terribile, questa cosa. Sì, non era quello più emozionante che accadeva, era raccontarci chi ci aveva provato con chi o se era successo qualcosa di particolare, così. Ma tutti sapevano tutti sapevano tutto? Certo, sembravano tutti rimbambiti, invece sapevano tutto. Il giorno dopo, a colazione, c'era praticamente questi gruppi di ascolto, c'era sempre una che raccontava e c'era un'altra che aveva visto, ma che cosa poi? Le punte più alte di questo erotismo da trasferta sono state una pugnetta notturna di nascosto, ma scoperta a causa di un letto a castello cigolante. Fatta da chi a chi? Dal compagno di camerata fighetto, che era infastidito di questo rumore, che dormiva, non riusciva a dormire al piano di sotto di questo letto a castello. E sotto quindi c'è... il giorno dopo. Ha una cosa, un autoerotismo, un atto autoerotico. c'è stato un solo atto di autoerotismo segnalato che ha anche infastidito molto con tutta compagno di stanza. Io penso c'era una manodopera disponibile per poter, diciamo, condividere anche questo atto notevole. Perché non si è rivolto a una di voi? No, non c'erano queste iniziative dei maschi verso di noi. Cioè un massaggio romantico ci stava, dai. Se l'è fatto da solo. Se l'è fatto da solo. Eh sì, ma non c'era nessuna iniziativa. Se non a un certo punto sono stati due umilianti tentativi della ventenne piacente del gruppo. Ai danni di due ragazzi del gruppo, che però erano quelli impegnati con le fidanzate a casa e purtroppo per lei fedelissimi. Sono felice che esistano questi uomini, spero ce ne siano sempre di più, dico la sincera verità, sono contento. Ah, sì? È giusto, sì, è giusto. Così finalmente le donne capiranno quali sono le scelte da fare nella vita, ecco. Beh, addirittura veramente c'era chi prendeva il telefonino incriminato dell'amico che l'aveva ritratto con una cameriera piacente perché temeva le riduzioni della fidanzata a casa. Va bene, ho capito che i pochi uomini disponibili vivono schiavi di rapporti che subiscono come se fossero delle coercizioni totali. Questo però li rende casti in ogni altra occasione. No, beh, ho notato che per esempio avevano a disposizione tutta questa spiaggia meravigliosa, c'era una brezza tiepida la notte, c'erano queste feste sulla spiaggia. L'unico polipo che si è presentato, anche un po' eccessivo perché eravamo insomma ragazzi del gruppo, è arrivato questo di 60 anni, ci ha riconosciute, si è infilato alla festa sapendo che ci andavamo, nessuno l'aveva invitato, ci ha toccacciate tutte quante. Questo veramente ci avrebbe portato in spiaggia, però nella spiaggia non c'era nessuno che ne ha approfittato per fare chissà che cosa. La spiaggia era deserta, erano tutti con la bottiglia in mano a fare quello che si chiama, oggi va abbastanza di moda, il tequila suicide, che io non sapevo neanche che cosa fosse, tra l'altro. Cos'è? Spiegami. E la tequila, invece di usare sale e limone sulla mano, si fa una striscia di sale, la si tira su da una narice, si beve la tequila e poi col limone bisognerebbe spruzzarselo negli occhi. Ecco, questa è la... Beh, divertente. Tequila suiza. È divertente, sì. Uno potrebbe anche farci il bidet, così completa la sensazione. Esatto. Scusami, chiaro che non ci hanno voglia, l'ho sniffato il sale e schizzato il limone negli occhi, ma cosa devono fare di più? Vabbè, no, certo. Ognuno si diverte come può. Sono felice, io spero che passi sempre di più la moda di questo tipo di intrattenimento, quindi quando noi sessantenni passeremo raminghi e rapaci vedendo queste feste con i falò davanti al fuoco, sapremo che lì sarà un terreno di caccia molto fertile. Esatto. Beh, con te invece non ci ha provato nessuno. C'è sempre la figura dell'organizzatore italiano all'estero che frega gli altri italiani. È quello che porta al gruppo? Quello che porta al gruppo? No, noi eravamo portati dal nostro gruppo, dai ragazzi del nostro gruppo che erano tranquilli, però avevamo questo che ci aveva affittato la casa, che pretendeva anche di dirci dove mangiare, cioè ci portava direttamente, quindi questo sì, era un classico italiano che ormai da 20 anni sta all'estero. E così dal punto in bianco faceva dei discorsi sul sesso dicendo: mi dispiace per voi donne italiane perché so che gli uomini sono tutti impotenti lì, e quindi certo, bella fama ci stiamo facendo. Sì, esatto, però questo era un altro di quelli che ha l'assalto verbale, poi si accontenta di quello. E dopo aver assalito verbalmente che faceva? Ma niente, la moglie lo guardava con pena e compassione. Ah, davanti alla moglie lo faceva? Certo. Vabbè, quella è una tipica maniera per fare. Per sì, sentirsi. La moglie portoghese, che sì. Però capiva tutto. Cioè, lo guardava con gli occhi di compassione, dice: ma dove vai te? Con quel vermicello, esatto, palliduccio che c'è fra le gambe. Immagino l'occhio della moglie, quello avrà detto. Vabbè, cara mia, consolati. Era meglio per te nascere in un'altra epoca. Purtroppo sei nata in questa epoca. Vedrai che alla fine troverai ciò che cerchi. Se comincerai ad alzare il livello delle tue attese, alzare dal punto di vista anagrafico, è inutile. Comincia a pescare più in alto e vedrai che sarai accontentata. Buon viaggio, ciao. Il treno va. Questa volta sono andato nel vagone di coda perché voglio che sia d'ora in poi il luogo deputato alla riflessione sul dramma amoroso. Mi continuano a scrivere donne, mi continuano a scrivere più o meno le stesse cose. Potrei fare una classifica delle 3-4 situazioni tipo in cui si trova oggi la donna mediamente emancipata, di età variabile tra i 30 e i 50 anni, nel nostro paese, alla ricerca disperata comunque di qualcosa che assomigli al concetto di uomo, anche se spalmato e adattato a quella che è l'epoca che stiamo passando e vivendo. E trovare uomini è sempre più difficile, e quando qualcuno lo trova poi non è quello che secondo lei è l'uomo giusto. Caro Gianluca, la relazione in cui mi sento impaludata non ha nulla di noioso, anzi, direi che è fin troppo ricca di quei fantastici tira e molla che alla mia età non si dovrebbero vivere, ma che mi hanno incollata al tipo in questione come carta moschicita. Diciamo che è un po' come se stessi sulle montagne russe, dalle quali mi è vietato scendere da 2 mesi. Il primo bacio me l'ha rubato davanti al supermercato intorno all'ora di pranzo ai primi di settembre. È stata la scena più imprevedibile e assurda che mi sia mai capitata. Era da un po' di tempo che, facendo la spesa, avevo notato quest'uomo che mi attirava nel modo di fare. Uno sguardo apparentemente distratto, ma con 2 occhi intensi e attentissimi, almeno nel contraccambiare il mio interesse. Era chiaro che ci stavamo inseguendo e avvicinando sempre di più, ma ancora non ci eravamo nemmeno rivolti la parola. Anche perché io vado sempre di fretta, mi compro giusto un panino nel reparto alimentare nella pausa pranzo e poi filo via. Quel giorno, però, ho comprato un panino con la mortadella, pensando bene di mangiarmelo vicino all'uscita del supermercato. Mentre stavo in piedi, facendo finta di interessarmi a tutte le pubblicità promozionali affisse sulle vetrate, lo intravedo alle casse a pochi metri da me. Guardo altrove per evitare il suo sguardo, ma dopo qualche secondo le porte si aprono e sento la sua presenza. Mi giro col panino in mano e lui, senza nemmeno darmi il tempo di sorridere più di tanto, mi bacia. Poi si presenta, mi ribacia e poi se ne va. L'ho guardato andarsene via in bici pensando: ho trovato un eroe, uno che affronta il rischio di prendersi un rifiuto, magari garbato, ma pur sempre un rifiuto, e soprattutto uno che ti bacia dopo averti visto con un panino con la mortadella, se non è coraggio questo. Certo, eroe dei nostri tempi, ma che vogliamo? Hanno tolto persino il servizio di leva, mica posso pretendere di innamorarmi di un kamikaze. La nostra amica ha trovato un uomo che esce dai canoni, perlomeno nella fase del corteggiamento, nella fase fatale dello scoccare della scintilla amorosa, mentre normalmente gli uomini che lei avrà finora frequentato la invitavano a farsi un aperitivo, la invitavano a fare una serata assieme, uscire insieme amici e amiche, poi un fine settimana, poi cena fuori, poi cena si cena sempre oggi, e poi magari una cena prolungata, e poi magari una salita a casa, poi magari un racconto di tutte le storie precedenti, e poi magari un pranzo a casa con la mamma e con il papà, se ancora c'è, e poi magari una di quelle lunghe, noiose, stucchevoli, monotone storie d'amore. Qua comincia bene con un bacio dato nel parcheggio di un supermercato al sapore di mortadella. Non potrebbe chiedere di meglio alla sorte. Da quel bacio alla mortadella ci siamo rivisti altre 3 volte, perché nel frattempo ci siamo scambiati i numeri e contatti. Di fatto, da 3 giorni, faccio lo sciopero della risposta ai suoi sms o alle sue chiamate, perché ho perso la bussola. Io non sono il tipo di donna che crede agli incantesimi, alle fatture d'amore, eppure qui c'è qualcosa che mi calamita a lui, nonostante sulla bilancia, da sempre, pesino molto di più le sue mancanze, piuttosto che tutte le classiche cose belle che l'amore comporta, o meglio, tutte le fesserie che ci hanno inculcato da bambine. Il principe azzurro che ti salva, ti protegge, e tutte quelle cazzate lì. Di fatto io non mi sono mai sentita la sua principessa, mentre lui l'ho sempre visto come il mio re. Ma il re non sa di essere tale, non sente il peso della corona in testa, non comanda sui suoi stati d'animo, anzi ci si crogiola dentro e ci si barrica dietro. E in questo gioco di ruoli mancati ci ritroviamo entrambi come cavie da laboratorio dentro la ruota della gabbietta, che girano, girano e non sanno manco loro perché lo fanno. Questo re senza scettro si chiama Alberto, ha 40 anni, separato senza figli, molto abile nelle comunicazioni virtuali e incapace totalmente di vivere alla luce del sole questa storia con me, con la naturalezza che si applica quando si manda giù un bicchiere d'acqua. Comunque, il primo problema è che mi sovrastima. Sono laureata, lui no. Ho un lavoro che mi fa guadagnare, lui no. Mi piace da pazzi il mestiere che faccio, il suo non si capisce, anche perché ne fa più di uno. Ha una bella casa, lui dice che la sua ovviamente fa schifo, e non è vero. Faccio sport, lui no. Ho tanti amici. Lui invece in questo mi batte, ma lo trattano tutti come il matto del paese. Quello intelligente, sì, ma matto. E a forza di sentirselo dire, matto ci è diventato per davvero, secondo me. È un uomo che quando gli scappa di essere felice, si stranisce. Si spaventa, si congela e poi colpisce. Con la fuga, una bugia, con un'aggressione verbale, buttandomi in testa un cestino pieno di malessere appallottolato che fa pure un po' male quando mi piove addosso. Ogni volta che stiamo bene, lui spegne l'interruttore, fa rewind, cancella il pezzo vissuto e mi tocca ricominciare da capo. Perché il maledetto poi torna, torna sempre, dice «Non posso fare a meno di amarti, ma non so amare». Dovrei farmi vedere insoddisfatta, forse. Non dirgli che come faccio l'amore con lui, mai al mondo. Insomma, non dirgli mai «Sai che sei figo e che mi rendi la vita figa e che mi fai persino sentire più figa quando sto con te». Ma mi sembra contro natura. Io dico belle cose, perché lui belle cose si merita. Che ne dica lui e il suo gruppo di amici dementi, che mi guarda come una santa che si è votata un incapace di intendere e di volere. E invece Alberto, secondo me, è solo terrorizzato dal sentire. Ora sto qui, da 3 giorni mi cerca e io tengo botta. Non è la prima volta, non è la prima volta che resisto, ma sto uno schifo e mi manca. E non so che fare. Ho la sensazione che se gli riapro l'uscio, magari stavolta riesco a prendergli il cuore tra le mani e soffiarci sopra un po' di leggerezza. Ecco Gianluca, ti ho illustrato la mia palude, solo che il fango adesso mi sta facendo reagire la pelle, e non solo. E mi chiedo se tu, una bella doccia gelata, me la consiglieresti o no. Ciao. Ed eccoci al doloroso epilogo. La nostra amica si è imposta una di quelle che vengono chiamate le pause di riflessione. Ora, la pausa di riflessione ha un senso se uno ha pronto una cartuccia bella lì in canna per ripassare a un'altra storia. Allora la pausa di riflessione è il periodo di sfumata lenta, di dissolvenza incrociata, in cui muore una storia e ne comincia un'altra. Ma se non hai il colpo in canna, cara mia, la pausa di riflessione non può che peggiorare il tuo problema. Tu in questo momento sei come una drogata, hai provato, assaggiato e ti è piaciuta una sostanza dopante che è il rapporto con il matto, il rapporto con la persona fuori dalle regole, il rapporto con la persona che ti fa toccare le vette più sublimi dell'emozione, ma allo stesso tempo ti fa crollare in dei pozzi di smarrimento, perché direi ma come farò io ad avere una vita normale con questa persona che è così lontano dalla norma. Tu devi prendere una decisione, cara. Vuoi seguire il matto nella sua follia fino all'orlo del precipizio, come nella carta zero dei tarocchi? Il matto cammina ridendo e sorridendo, con un cane che gli addenta la chiappa scoperta, con un fagottino con delle cose folli dentro, verso un precipizio. Il matto cammina sempre verso il precipizio. Non sappiamo se poi lui finirà dentro o rimarrà indenne. Andare dietro al matto significa rischiare sempre di cadere nel precipizio. Da questa pausa di riflessione uscirai ancora più tossica e ancora più vogliosa di stare sull'orlo del precipizio con il matto, a meno che tu faccia una cura disintossicante. Ci sono delle ottime cliniche, si chiamano viaggi con avventure nel mondo, si chiamano giro per il mondo con un'amica fedele e sincera, o si chiamano tornare al proprio paesello, cercare un bravo ragazzo, magari un signore divorziato, meglio un vedovo, e accontentarsi di passare con lui il resto della vita. Non ci sarà nessun precipizio, ma solo una sterminata e desertificata pianura. Scegli tu.